Eccoci qua con Enrico, un collaboratore abituale, si può dire così, di passaggio a nord-ovest, in particolare per quanto riguarda l'area, la zona di Sesto, la zona più a nord, ecco, della città, e siamo qui per parlare appunto di un'iniziativa Ripuliamo le pendici del Monte Morello, e una risposta concreta all'emergenza inquinamento ambientale in ambito escursionistico, e tra l'altro un'iniziativa che, seppur nel suo piccolo e seppur localmente, si inserisce in una dimensione più generale, più globale delle iniziative del mese di marzo, che riguardano appunto la lotta contro l'innalzamento del clima, il Climate Strike, la manifestazione a Roma del 23 di marzo, e più in generale tutte queste iniziative contro l'inquinamento ambientale. Ripuliamo il pendici Monte Morello, organizzata dalla Unione Operaia di Colonnata, e ritrovo in piazza Rapisardi, cioè la piazza principale di Colonnata, alle 8:30, per poi andare direttamente alla Fonte dei Seppi alle 9. Fonte dei Seppi a Monte Morello, e appunto a Enrico gli chiediamo come si articola la giornata, ma anche un discorso, una cosa più articolata rispetto a questa montagna che si erge qui dalle nostre parti, la montagna dei Fiorentini, insomma la montagna della Piana. Sì, grazie per l'ennesima ospitalità. È una iniziativa popolare, diciamo, parte dal basso. Praticamente alcuni, diciamo, frequentatori della Casa del Popolo di Colonnata, che particolarmente sensibili a questioni ambientali, fra cui anche io, e ci siamo un attimino interrogati se non fosse stato possibile organizzare una giornata di pulizia di alcuni tratti di Monte Morello. Allora si è messo in moto un meccanismo coinvolgendo abbastanza abitanti, frequentatori della Casa del Popolo, ci sono già decine di persone che hanno dato la loro disponibilità, e si è individuato nella domenica 24 marzo di buon mattino, ovvio, all'8:30 ritrovo piazza Rapisardi, per poi spostarsi o arrivare direttamente alle 9 al Fonte dei Seppi, dove ci sono praticamente due sentieri, e un'area che è quella della racchetta e poi un viottolo di montagna, diciamo così. Queste quattro direttrici verranno prese da quattro gruppi diversi in considerazione, ci si allontana per un'oretta abbondante, ci si porta dietro sacchi, guanti, ci si raccomanda calzini, anche se non vanno di moda, calzature, buone scarpe anche per difendersi dalle zecche, che in quel periodo saranno già forse diffuse a Monte Morello, e qualsiasi altro pericolo che possa derivare da insetti o quant'altro, attrezzati appunto per come si può, e si raccoglie il sudicio cercando di differenziarlo, quindi carta, plastica e via dicendo, e dopodiché si torna indietro e si fa smaltire. Ecco, ha parlato di due sentieri. Monte Morello è solcato da diversi sentieri. Ci può dire qualcosa di più preciso? Sì. Il numero, le dimensioni, le difficoltà? Allora, ci sono diversi sentieri, sono quelli contrassegnati dalla segnaletica bianca e rossa, quella tipica del CAI. Esistono anche tante cartine che si possono trovare, sia stampate che online. Ci sono sentieri Ma di varia lunghezza, di varia durata e per tutte le difficoltà. Monte Morello, che viene adottato un po' da tutta la popolazione, sicuramente per la Sestese, il monte di Sesto, quello a cui tutti i sestesi sono affezionati, ma anche da buona parte dei fiorentini e di altre località limitrofe, perché appunto c'ha questa caratteristica di essere facilmente percorribile. Chi vuole fa una lunghezza lunga, magari collegando anche più sentieri. Chi ovviamente c'è da fare attenzione al dislivello, non tanto alla lunghezza dei sentieri, questo ci si raccomanda, perché poi la difficoltà del sentiero è quella del dislivello, diciamo. Si può fare anche, ne so, 6 km abbastanza tranquillamente se sono un piano, ma già un chilometro e mezzo o anche un chilometro con forte dislivello può essere già difficoltoso. E quindi, soprattutto quando oramai, causa il cambio climatico, siamo già in buona stagione, quindi sole, ovviamente si consiglia acqua, limone, cioccolata, qualcosa da mangiare, coprirsi se viene un acquazzone improvviso, coprire gli arti inferiori, come si diceva, è importante quando si va a giro, se no si corre il rischio di trovarsi pieni di zecche, soprattutto se ci si allontana dai sentieri. E è sicuramente un'occasione per vivere all'aria aperta, in un momento in cui è importante ribadirlo e ricordarlo: il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti, no? E, insomma, questi giorni facciamo vedere ai telegiornali il Po che è praticamente secco, allucinante, una cosa che fa veramente impressione. Il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti e riprova ne è che il 15 marzo è il climate strike, no? Che si terrà fra l'altro anche a Firenze, una manifestazione, e poi ci sarà il proseguo nazionale, quello di 23. E Monte Morello è una montagna, un rilievo, praticamente alla periferia della metropoli, insomma, della città, ma che però ha delle caratteristiche peculiari sia da un punto di vista faunistico che da un punto di vista della flora. Sì, è un ambiente sicuramente prezioso, non è l'ambiente più particolare che forse abbiamo nei dintorni. A me viene a pensare per esempio la Calvana, personalmente, ma non solo personalmente, molti sono affascinati dalla Calvana, che sono i monti che separano, diciamo, da Firenze a Prato. E perché? Perché la Calvana è proprio calva, quindi brulla, quindi piena di caverne, quindi occasione anche per gli speleologi, e quindi proprio per la sua particolarità spesso si trovano delle specie, anche animali, degli uccelli molto particolari. Morello, che si chiama così, si vuole anche per la sua opera di imboschimento, fu fatta a tempi dei tempi, che quindi divenne più scuro, perché sennò altrimenti sarebbe stato anche lui abbastanza calvo. E Morello non ha delle particolarità molto peculiari, però il fatto che sia sempre meno abitato ha fatto sì che non solo si è sviluppato la flora, ovviamente, ma anche tanta fauna. Mi ricordo quando, sempre all'Unione Operaia di Colonnata, si fece la serata di cui si fece sempre su Radio Wombat un'intervista, si fece una serata sul lupo, no? E come dimostrarono tutti coloro che hanno a che fare con il lupo, quindi occasionalmente, quindi, che ne so, cercatori di funghi, naturalisti, studiosi, ma anche cacciatori, ma anche semplici cittadini, le segnalazioni sul lupo si sono moltiplicate. Oramai è un abitante naturale del Monte Morello, anche perché va considerato che alcune specie che magari ci possano un po' impressionare, no? A livello anche di suggestione, come il lupo, spesso lo si possono incontrare non solo perché abitano una zona, ma perché la attraversano. Il lupo fa chilometri e chilometri, no? E quindi magari passa da Morello ma non necessariamente ci sta. Però l'ululato del lupo di notte a Morello ormai è una cosa abbastanza comune, anche se poi c'è la questione degli ibridi e quindi la questione dei cani abbandonati, randagi che si stanno mischiando con il lupo, e quindi possono essere un po' più pericolosi per l'uomo perché non hanno paura dell'uomo e via dicendo. Ma insomma, se uno si appassiona all'ambiente circostante, ecco, diciamo che uno degli obiettivi di questa iniziativa non è solo quella concreta, ovviamente, di ripulire un pezzo del territorio, e si fa per quello, ma anche ovviamente per cercare di stimolare una certa sensibilità ecologista e di staccare un po' l'occhio dallo smartphone o insomma la testa ai pensieri soliti che ci attraversano, guardare un po' verso il cielo, il monte, e scoprire che magari può essere un'occasione per osservare una pianta bellissima o fare un incontro inaspettato a livello di animali e via dicendo. E quindi un'iniziativa che è anche, diciamo, riprendiamoci la montagna dal basso, ecco, come iniziativa popolare. Ecco, e un po' di una fotografia, ecco, Monte Morello, quanto è alto, quali sono le cime principali, un po' di dimensioni, punti di accesso. E Monte Morello è un monte cosiddetto, anche se poi, diciamo, si sta sotto i mille metri, si va sui 934 metri, mi sembra, ed è costituito da tre punte. È costituito da tre punte e si può partire coi sentieri quasi fin dai centri abitati, ci sono dei sentieri che partono quasi fin dai centri abitati, oppure si può approfittare dell'occasione di avere un punto d'appoggio come il rifugio del Gualdo, che è conosciutissimo appunto dagli appassionati di sentieri e di camminate in Monte Morello, perché è molto strategico, perché è un crocevia, è intanto un punto d'appoggio, un bel rifugio dove si può lasciare la macchina, dove organizzandosi e mettendosi d'accordo si può anche mangiare un boccone o appunto avere riparo o quant'altro. E poi appunto è un crocevia di sentieri su cui si può visitare tutto il circondario. E un'altra caratteristica che si può citare, visto anche relativa all'iniziativa, è quella di un monte, come tutti i monti, fortunatamente ricco di acqua, anche se appunto in questo periodo rispetto al clima c'è sicuramente da fare alcune considerazioni. Noi non a caso si è preso come riferimento il piazzale cosiddetto noto come Fonte dei Seppi, perché è una delle fonti più conosciute di Monte Morello, ma ce ne sono altri come Fonte Becciolino, Fonte del Ciliegio e via dicendo, sempre tra l'altro vicino al rifugio Gualdo, che si trova invece a metà altezza del monte, diciamo, anche quello può essere utile per non prendere in considerazione un dislivello troppo eccessivo, perché il rifugio Gualdo è sui 428 metri sul livello del mare rispetto ai 934 appunto della punta più alta di Monte Morello, che è Poggio Allaia, poi c'è Poggio Cornacchiaia e Poggio Casaccia, appunto le altre, e le fonti sono sicuramente un aspetto ecologico, una ricchezza naturale importante che ci offre il monte. Anche se poi appunto bisogna vedere rispetto alle stagioni e al cambiamento climatico cosa vuol dire a livello di offrire la produzione d'acqua che poi va a valle. Sicuramente il Rimaggio, il torrente più conosciuto, che si chiama Rimaggio come in tante altre località perché sta per Rio Maggiore, quindi il ruscello più importante, il Rimaggio lo possono osservare tutti, ahimè, perché anch'esso molto sudicio, e infatti potrebbe essere, se va bene l'iniziativa, l'obiettivo della prossima di pulizia. Il Rimaggio è appunto, diciamo, uno dei torrenti da cui nasce e si sviluppa l'apporto idrico di Monte Morello. E quindi acqua, quindi clima, quindi aspetti anche meteorologici, speriamo che il 24 marzo piova, se no un problema andrà rifissata, e quindi convivialità, e quindi affrontare le questioni anche ecologiche collettivamente, ritrovandosi tutti insieme, un po' tutto questo è ripuliamo le pendici di Monte Morello stagione 2019, sperando che tutto vada bene e ce ne possa essere altri. Quindi appunto, come dicevi, acqua, flora, fauna e anche un polmone verde per la piana. Assolutamente, assolutamente. E gli alberi sono quelli che ci salvano. Pensate un po' all'Australia. L'Australia ha già deciso, sta già facendo, di piantare 1 miliardo di alberi. E lo sapete perché l'Australia pianta 1 miliardo di alberi? Perché l'Australia va quasi tutta a carbone. E quindi un po' per rimorso, un po' per necessità oggettiva, cercano di abbattere un po' le emissioni inquinanti, che noi, fra l'altro, noi come popolazione sensibile della piana nord-ovest di Firenze, come sa bene Radio Wombat, stiamo cercando di monitorare con il progetto Keratiria delle centraline di monitoraggio, perché è tutto collegato, non è che si sta saltando di palo in frasca come argomento. Il bello dello studio dell'ambiente è che è tutto collegato. E, ovvero quello che ci può essere come emissioni inquinanti nell'aria può influire dalle caratteristiche del territorio, quindi la presenza o meno di alberi e quindi, che ne so, la salute del suolo o l'abbandono del suolo può determinare eventuali smottamenti, come ci sono stati addirittura mettendo a repentaglio la viabilità di Monte Morello. È tutto collegato. Secondo me una delle cose affascinanti dello studio dell'ambiente, dell'ecologia, proprio per ciò che significa, e quindi lo studio delle relazioni ambientali, e cioè dello studio dei viventi all'interno delle relazioni ambientali, è affascinante perché non è uno studio che si concentra su un aspetto solo della questione, ma dimostra come tutto è in relazione, insomma, e quindi anche il concetto di collettivo e di collettività assume un valore essenziale per il nostro futuro. E ringraziamo Enrico per questo contributo. Ricordiamo l'appuntamento 24 marzo ore 8:30 circolo all'Unione Operaia di Colonnata, che è appunto l'organizzatrice principale della mattinata di pulizia collettiva di una parte, diciamo, di Monte Morello. Monte Morello è solcato da sentieri, come abbiamo già sentito, come ci ha spiegato Enrico, ma che questi sentieri, oltre a una particolarità dal punto di vista ambientale, hanno una particolarità anche da un punto di vista storico, in particolare per quanto riguarda la storia della resistenza in Toscana e soprattutto a Firenze. Ma su questo appunto abbiamo un altro contributo, il contributo di Emanuele, che ora ci ascoltiamo. Nel frattempo ci sentiamo un pezzo musicale. Now esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Somos viento, somos el viento que sopla, que viene y va. Somos viento, energía y movimiento. Mira, somos viento, que es lo que somos en realidad. Somos viento, icotín, icotín, icotín, viento. Sempre su Monte Morello e su quello che è la, questa montagna tra, dei fiorentini, sostanzialmente siamo in diretta con Emanuele, guida ambientale, a cui gli chiediamo una descrizione, ecco, i particolari rispetto a questa montagna, a questo monte. Sì, intanto buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano. Sì, come hai detto bene te, è la montagna dei fiorentini, è la montagna è più vicina a Firenze, quella che abbiamo sempre percorso, però se tu vuoi si può prendere anche un po' come a simbolo di come a volte viene interpretata la natura, perché c'è una storia in Monte Morello, diciamo, di sfruttamento dal 1500, da quando è stato disboscato completamente per uso e consumo del Granducato toscano. Lo sfruttamento che poi è continuato perché dal 2001 c'è una galleria che passa sotto il Monte Morello, è quella della TAV che collega Firenze e Bologna, che diciamo ha creato non pochi problemi, soprattutto ai corsi d'acqua, ecco, del Monte Morello. Quindi sì, è la nostra montagna, ci andiamo a camminare, è bella, è la natura vicino a noi, però ecco, non sempre c'è stato un occhio di riguardo, ecco, per proteggerla, per salvaguardarla. E appunto come guida ti chiediamo come i sentieri su Monte Morello. Ma senti, Monte Morello è veramente coperto da una rete sentieristica ben fatta e anche è ben segnato, quindi diciamo anche autonomamente, se uno ha un attimino di mestichezza con una carta topografica, può avventurarsi nella scoperta del Monte Morello. In particolare, ecco, diciamo ci sono una serie di sentieri, siccome il Monte Morello una delle sue particolarità è quella di avere moltissimi corsi d'acqua, moltissime sorgenti, quindi diciamo è stato studiato uno tra i tanti percorsi del Monte Morello, il sentiero numero 12, che tocca la maggior parte delle sorgenti della montagna. Sono sentieri quelle vengono chiamate fonti. La fonte, esatto, la fonte del Ciliegio, la fonte del Nocciolo, la fonte del Cicciolino, la fonte dei Seppi, che diciamo forse la fonte dei Seppi è quella più conosciuta perché è, diciamo, è il luogo di partenza di moltissime escursioni sul Monte Morello, perché ci si arriva comodamente con la macchina. E quindi da lì poi si arriva anche facilmente alle tre punte di Morello, insomma sei già nel cuore della montagna. La montagna che non ci dimentichiamo, ecco, questo voglio dire, perché nonostante sono stati fatti i lavori, eccetera, sia stata compromessa un po' la naturalità del posto, dal 96 è un sito di interesse comunitario, quindi è salvaguardato, perché ha delle particolarità naturalistiche e faunistiche rilevanti. Ecco, da un punto di vista No, ti chiedevo da un punto di vista dell'impegno, come sono questi sentieri? Ma e senti, allora ti racconto questo aneddoto simpatico. Io insomma a Montemorello ci andavo anche quando ero un pochino più pischellino e mi ricordo pischello e quindi pieno di energie. E io con i miei amici evitava sempre, con i compagni di escursione, evitava sempre di fare un sentiero che si chiama, che parte dal rifugio Gualdo, si chiama Sentiero del Pensionato. Perché noi c'era sempre, capito, il sentiero del pensionato sarà una cosa ridicola, noi ci stava la voglia di gambare, di fare le pettate, le salite. Ecco, il sentiero del pensionato poi anni più tardi ho scoperto che c'è anche un sottonome, ovvero rompistinchi. Ecco, il sentiero del pensionato è una pettata incredibile. Io credo che nessun pensionato possa farlo, perché è dura. No, senti, diciamo che se già arrivi in altezza, in altitudine, con le macchine, cosa che si può fare con perché comunque è percorso dalle strade il Monte Morello, e riescono a fare delle passeggiate per tutti. È anche interessante però delle volte provare a partire proprio dalla città, quindi da altitudine. Quindi anche se l'altitudine del monte, la cima, non supera neppure 1000 metri, però si parte da un livello del mare praticamente zero sostanzialmente. La città di Firenze è poco sopra lo zero, il poggio più alto del Monte Morello è il poggio all'aria, sono 934 metri, non è che sia altissimo, però certo quando vai a partire da 0 metri quel dislivello poi te lo devi fare tutto ovviamente. Però vi voglio dire, ci sono anche possibilità di, intanto bisogna vedere da quale versante lo si prende, perché io ti posso raccontare, diciamo, un conto è prenderlo da Sesto Fiorentino, da Castello, da Firenze, ma diciamo che c'è anche un accesso dal nord del monte, quindi per esempio io mi sono trovato a fare delle bellissime passeggiate raggiungendo Firenze, attraversando il Monte Morello da Vaglia, per dire. Mm-hmm. Lì ci sono pendenze più accettabili, a parte proprio nell'ultimo tratto, e anche quella, per dire, quella è una camminata, mi è capitato in una giornata d'inverno di fare proprio Vaglia Sesto Fiorentino, che tra l'altro è una camminata bella e anche comoda perché si può fare con i mezzi pubblici, a Vaglia è raggiungibile con il treno e una volta che poi uno arriva a Sesto e può tornare in centro città o dove deve andare con un altro mezzo pubblico. Ecco, io sponsorizzo molto queste escursioni fatte con mezzi pubblici. E ti posso dire che quando siamo arrivati a Poggio all'Aia, c'era la nebbia, macchie di neve a destra e a sinistra, il vento che soffiava, questa croce che si stagliava, il prato, ti posso dire sembrava un paesaggio alpino, o quantomeno appenninico, ma di quelli seri. Quindi il Monte Morello può riservare delle sorprese che a volte sono inaspettate. Ecco, e dalla parte di Castello di Sesto com'è il sentiero, la salita? Ma vedete, dalla parte di Castello ci sono nella parte più vicina alla città, intanto la campagna lì è disseminata di ville che da sé vale la pena di scoprire. Per raggiungere i sentieri bisogna un po' utilizzare le strade secondarie, un po' di strade bianche, però ci sono moltissime possibilità sia dalla parte di Castello, dalla parte di Ferpiolle, da Colonnata, da Calenzano si sale sul Monte Morello. La rete sentieristica percorre le cime ma arriva fino alle porte della città, quindi facilmente accessibile. Esatto, esattamente, è facilmente fruibile, sì, assolutamente sì. E l'altra particolarità di Monte Morello è che appunto è stato teatro durante la Seconda Guerra Mondiale non solo di battaglie ma anche di rifugi da parte dei partigiani. C'è una rete di sentieri partigiani, in particolare uno che va fino alla Fonte dei Seppi. Sì, Monte Morello è stato un rifugio, come tutte le alture diciamo intorno a Firenze sono state rifugio per i partigiani durante soprattutto gli ultimi anni della guerra. In particolare Monte Morello, la Fonte dei Seppi che tu hai citato, è famosa, ricordata per un evento tragico, un evento tragico della Resistenza, tra l'altro siamo anche alle porte della liberazione di Firenze, quindi cioè qualsiasi eccidio ovviamente sia odioso, quelli che poi sono avvenuti proprio un mese prima, 2 mesi prima della liberazione ci sono ancora più odiosi, poi in questo caso si trattò di un vero e proprio, come si dice, vennero attirati lì dalla notizia dei partigiani e vennero trucidati. Partigiani che si erano mossi, era una brigata di 11 persone, si erano mossi per andare il 14 luglio del 44 per andare a aiutare dei contadini che pareva che venissero vessati da questi nazisti che passavano casa per casa e requisivano cibo e quello che c'era da requisire, pochissimo che c'era da requisire. Ecco, questi 11 partigiani arrivati all'altezza della sella degli Scollini, dove ancora oggi c'è un cippo che ricorda l'evento, si trovarono in mezzo al fuoco dei nazisti. Sono morti tutti questi partigiani, tranne uno che aveva un soprannome, si chiamava Santa Macchie, che riuscì strisciando tra i rovi a raggiungere Sesto e a dare l'annuncio di questa esercizio. Sì. Ancora oggi viene fatto una commemorazione lì al cippo dei caduti per ricordare questo evento. Tra l'altro un cippo dei caduti che ha subito numerosissimi danni nel corso degli anni, soprattutto negli anni 70-80, è stato più volte distrutto, danneggiato da gruppetti di neofascisti, però è sempre lì, ecco, è sempre lì e soprattutto possono anche levarci il cippo, ma la memoria non ce la leveranno mai. E questi sentieri sono tuttora visibili, praticabili, questa è la Fonte dei Seppi, sono tenuti in ordine? Sono tenuti in ordine, è il CAI che si occupa, come in tutta Italia, della rete sentieristica italiana. Ti volevo chiedere, cosa vorresti, cosa suggeriresti, sì, cosa diresti a qualcuno, agli ascoltatori della radio, più in generale alle persone che vorrebbero utilizzare, tra virgolette, di più questa montagna da un punto di vista naturalistico, da un punto di vista ambientale, anche faunistico, ecco. Ma senti, come abbiamo già detto, il Monte Morello non è una cima alpina, quindi veramente è fruibile da tutti, c'è anche la strada forestale che la attraversa, quindi anche se uno non è particolarmente abituato al cammino, sul sentiero, veramente può passare una giornata immersa nella natura a portata di mano, perché comunque Monte Morello è ricco, oltre c'è un patrimonio storico, artistico, si parlava delle ville che stanno giù più basse, ma anche su andando in altitudine, appunto, proprio è stato dichiarato SIC perché c'ha una ricchezza sia faunistica che vegetazionale. Ora, devi pensare che Monte Morello è stato frutto di un rimboschimento dei primi del Novecento, quindi la naturalizzazione delle piante, della vegetazionale del Monte Morello sta avvenendo adesso stanno cominciando a rientrare piante che sono autoctone, che sono le nostre, no? Le querce autoctone, le nostre, mentre prima il rimboschimento è fatto, si trovano ancora tanti pini neri, si trovano un po' d'abeti che però piano piano stanno scomparendo. No, ti segnalo dal punto di vista faunistico, ecco, la presenza di alcune specie abbastanza rare, in particolare degli anfibi che crescono proprio perché c'è questa ricchezza d'acqua sul Monte Morello. C'è la presenza della salamandria dagli occhiali, che è un anfibio raro, che raramente si trova, e poi proprio per la geomorfologia è calcarea, la montagna del Monte Morello è carsica, si trova nelle grotte, difficilmente è visibile, diciamo, bisogna andarci con la guida, il geotrifone. Il geotrifone è sempre un anfibio che vive dentro le cavità dove si trova l'acqua e esce soltanto in momenti eccezionali della sua vita. Ecco, queste sono particolarità che uno dice non c'è bisogno di andare magari lontanissimo per trovare delle cose veramente valide. Benissimo, Manuel, noi ti ringraziamo. Grazie. E niente, Radio Wombat. Ci vediamo sui sentieri di Monte Morello. Finisce qui la trasmissione. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.